possiamo accomodarci. Il Salmo 107, versetto 1, comincia così dicendo: celebrate il Signore perché la sua bontà dura in eterno. Leggiamolo insieme. Celebrate il Signore. No, non solo leggiamolo insieme, ma leggiamolo anche con lo stesso tono, va bene? Celebrate il Signore. Ancora una volta, celebrate il Signore e la sua bontà dura in eterno. Amen. E così la sua bontà dura in eterno. Io voglio parlare della bontà di Dio, o meglio, io voglio parlare dell'importanza di riconoscere il valore e l'attributo di Dio nel suo essere buono. È fondamentale che noi abbiamo piena consapevolezza del fatto che Dio è buono, e non è a tratti buono, non è buono con alcuni, non è in alcune stagioni della nostra vita buono. Lui è sempre, eternamente, costantemente e infinitamente buono. Ed è per questo che lo celebriamo. E sapete, c'è un autore, pastore cristiano dell'inizio secolo scorso, che ha scritto che la cosa più importante della nostra vita è l'idea che abbiamo di Dio. La cosa più importante della tua vita e della mia vita è la rivelazione che abbiamo di Dio, l'idea che abbiamo di Dio, che cosa pensiamo di Dio, perché ciò che pensiamo di Dio determina la nostra azione, il nostro coraggio, il nostro perdono, le nostre scelte, la nostra resa, tutto. Tutto è determinato dalla rivelazione che noi abbiamo di Dio. E io mi chiedo questa mattina: sei convinto e certo e sicuro e senza ombra di dubbio perfettamente allineato alla parola di Dio, quando la parola di Dio dice che Egli è buono e la sua bontà dura in eterno? Sapete che questo verso è ripetuto decine e decine di volte. Quando la Bibbia diventa ripetitiva, evidentemente Dio vuole che noi siamo convinti di quella determinata verità. E ci sono tanti versi che ripetono questa verità: il Signore è buono e la sua bontà dura in eterno. C'è un episodio addirittura che noi leggiamo in Due Cronache al capitolo 20, che è la battaglia di Giosafat. Non so se vi ricordate, il popolo di Israele è minacciato da 3 altri eserciti e Giosafat, questo re, ha sapienza nel condurre una battaglia straordinaria, soprannaturale. Chi mette davanti? Non dei prodi guerrieri, non degli armamenti straordinari, non un esercito vigoroso, muscoloso, coraggioso. Lui mette a testa dell'esercito dei cantori, degli adoratori, delle persone che vanno davanti sotto la minaccia di 3 eserciti diversi per combattere una battaglia senza armi, facendo dichiarazione di lode e adorazione. E che cosa dicono questi cantori? Lo leggiamo. Dopo aver tenuto consiglio con il popolo, Giosafat stabilì dei cantori che, vestiti dei paramenti sacri, cantassero le lodi del Signore e, camminando alla testa dell'esercito, dicessero: celebrate il Signore perché la sua bontà dura in eterno. Delle tante dichiarazioni di fede, delle tante dichiarazioni e inni celebrativi, scelgono questa frase, scelgono questa dichiarazione. Beh, qualcosa ha da dirci ancora a noi oggi. Le battaglie si affrontano con la rivelazione piena della bontà di Dio. Le battaglie si vincono con una piena rivelazione, convinzione e fiducia del fatto che Dio è buono. Noi abbiamo anche un canto che cantiamo, ieri al matrimonio di Cristian e Sofia l'abbiamo cantato, che Dio è buono. Però non possono essere delle parole vuote, delle parole che cantiamo solamente, devono essere accompagnate da un cuore che è allineato con questa verità e una fede piena, ed è così che si vincono le battaglie. Qualsiasi battaglia tu stia affrontando, questa è la frase di cui hai bisogno: celebrate il Signore perché la sua bontà dura in eterno. Andiamo avanti con la lettura. Cosa leggiamo? Che appena cominciarono i canti di gioia e di lode, il Signore tese un'imboscata contro i figli di Ammon e di Moab e contro quelli del monte Seir che erano venuti contro Giuda, e rimasero sconfitti. Il popolo di Israele non alzò un'arma, non fece una battaglia, non tirò neanche un pugno, neanche uno schiaffo. Dichiarò una verità di straordinaria efficacia e di profondità suprema. Dio è buono. Dio è buono. È una verità che può stabilire la tua vita in conquista, nell'essere conquistatore vittorioso. È una vita, la tua vita, che questa verità la vive appieno. Ci sono quattro aspetti diversi che tu vivrai nel momento in cui avrai convinzione del fatto che Dio è buono. La prima cosa che accadrà è che vivrai nella verità. Perché è una bugia che Dio non è buono. Diciamolo chiaramente. Ed è la bugia, la prima truffa mai che ci sia mai stata. Il diavolo nell'Eden, la prima cosa che cerca di convincere Eva a fare, lo fa presentando un Dio che non è buono. Come di tutti gli alberi non potete mangiare? Quando invece sapevano benissimo, e anche Satana sapeva, che era solo di un albero e di tutti gli altri potevano mangiare benissimo. Come il Signore vi ha detto che se mangerete morrete, non morrete affatto. Dio non è buono, non dice il vero, c'è qualcosa che nasconde. E attraverso questa bugia fa cadere l'uomo, e attraverso questa bugia fa cadere ancora noi oggi. E noi dobbiamo smascherare quella che è la bugia di Satana e quella che è la bugia della nostra carne, che ci porta ad inclinarci verso un'altra certezza, che non è verità, che Dio non è buono. Invece inclinati verso la verità, e la verità ti rende libero. E la verità è questa, che Dio è buono. Questa è la prima cosa che fa. Il vivere nella certezza della bontà di Dio ti permette di vivere nella verità. La seconda cosa, rende stabile la tua fede. La tua fede è ben stabile e solida perché non è basata su cose che sono momentanee e passeggere, su quello che Dio fa o non fa. È basata su un attributo, una caratteristica di Dio. Sul fatto che Dio, a prescindere che noi comprendiamo quello che faccia o non lo comprendiamo, rimane buono, è sempre buono, è la sua caratteristica, è il suo attributo, è quello che Lui è e non può essere diversamente da questo. E quindi nel momento in cui tu vivi nella verità che Dio è buono, la tua fede ha una stabilità superiore. E riesce a reggere davanti alle stagioni più difficili. Stai attraversando una stagione difficile, hai bisogno della rivelazione che Dio è buono. E devi partire da questa convinzione. Non devi mettere alla prova, non devi testare, non devi cercare di trovare le ragioni per le quali questa verità ha fondamento. No, devi saperlo, devi convincerti del fatto che è verità perché è nella parola, e devi vivere sulla base di questa verità. Dio è buono. Dio è sempre buono. Nel giorno migliore della tua vita e nel giorno peggiore, Lui è buono. E ti puoi alzare la mattina e dire: Signore, io so che Tu sei buono. Perché Tu dici così e Tu dici solo verità. E io mi fido di questa verità. E questo rende la tua fede solida, stabile e vigorosa. Il terzo aspetto che cominciamo a vivere nel momento in cui siamo convinti del fatto che Dio è buono e che tutto cambia prospettiva. La prospettiva sulla vita, la prospettiva sul mondo che ci circonda, la prospettiva sulle nostre scelte, la prospettiva che ci dà orientamento nelle stagioni che attraversiamo. La nostra prospettiva, la nostra visione delle cose cambia nel momento in cui noi partiamo dalla convinzione Dio è buono. Torno a ripetere, non deve essere una conclusione, deve essere un punto di partenza. E se sarà il tuo punto di partenza, darà prospettiva a tutto il resto e ti permetterà di orientare e di beneficiare proprio di questo attributo di Dio. Perché sappiamo una cosa, gli attributi di Dio sbloccano benedizioni nella nostra vita nel momento in cui noi poniamo fede su di essi. Se non crediamo nella sua misericordia, nella sua grazia, nella sua guarigione, nella sua onnipotenza, questo rende sterile la nostra possibilità di vivere gli attributi di Dio. Ma quando noi crediamo che Lui è l'Onnipotente, noi cominciamo a godere del fatto che Lui è onnipotente. Quando noi crediamo che Lui è buono, noi cominciamo a beneficiare del fatto che Lui è buono. Quindi è fondamentale che noi acquisiamo questa certezza della Sua bontà, perché cambia la prospettiva completa della nostra vita e delle nostre giornate. Ultimo aspetto, il quarto, è che nel momento in cui tu riconosci che Dio è buono, tu cominci a vivere una metamorfosi, una trasformazione, un cambiamento. E qui vorrei ricordarvi come siamo partiti quest'anno nel prendere e nell'abbracciare questa tematica, come te. Perché dovremmo essere come Cristo? Perché dovremmo assomigliare a Cristo? Per imposizione, per legge, per comandamento? Perché se non lo fai, il pastore si offende, se non lo fai qualcuno ti punterà il dito. No, noi desideriamo essere come Cristo, noi desideriamo essere come Dio, perché partiamo dal presupposto che Lui è buono. E lo dice Pietro, non lo dico io, voglio leggerlo con voi ancora una volta, questo verso che si trova nella lettera di Pietro, la prima lettera di Pietro, al capitolo 2, e lui scrive così: sbarazzandovi di ogni cattiveria, vedete il cambiamento, liberatevi di cattiveria, di frode, di ipocrisia, di invidie e di maldicenza, come bambini appena nati desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza, se davvero avete gustato che il Signore è buono. Questo verso potrebbe essere stato, lo poteva scrivere anche diversamente, lo potremmo anche leggere in questa maniera, lo potremmo leggere così: se hai gustato che il Signore è buono, allora sbarazzati di cattiveria, allora sbarazzati di frode, dell'ipocrisia, delle invidie, della maldicenza e cresci. Cresci come un bambino che desidera il latte, e questo latte spirituale è la parola di Dio. Cresci. Il Signore vuole che noi cresciamo e cresciamo liberi, sbarazzandoci di ogni cosa negativa, e per farlo dobbiamo aver gustato quanto Lui è buono. Perché è la consapevolezza della Sua bontà che ci porta a vivere trasformazione. Come avviene? Avviene così che quando sai che Dio è buono, tu ti fidi. Tu ti fidi. Quando hai a che fare con una persona, noi siamo imperfettamente buoni, però anche noi lo facciamo, è automatico. Se noi percepiamo che una persona è genuinamente buona, ci fidiamo. La bontà produce fiducia. La bontà eccellente e perfetta di Dio, quando rivelata al credente, porta il credente a vivere una totale fiducia. E la fiducia produce arresa. E l'arresa produce cambiamento. Questo è il giusto ordine. Questo è l'ordine che l'apostolo Pietro sta presentando. Non sta dicendo sbarazzatevi prima delle invidie, della maldicenza, di ogni cosa negativa e poi gusterete che Dio è buono. No, lui parte dal presupposto che se hai gustato che Dio è buono, allora verrà automatico da parte tua fidarti di Lui, fidarti dei Suoi comandamenti, arrenderti a Lui e di conseguenza essere trasformato e quindi assomigliare sempre di più a Lui. Vuoi essere come Cristo? Voglio essere come Cristo? Credo che la risposta a questa domanda da parte di tutti noi è un solido sì, vero? Non era tanto solido questo sì. Lo dico di nuovo, la convinzione da parte nostra come Chiesa, Pieno Vangelo, di Modugno per quest'anno e per il resto della nostra vita è che noi vogliamo assomigliare di più a Cristo, sì? Sì, sì, sì, è quello che vogliamo. E lo vogliamo perché Lui è buono. E perché la Sua bontà dura in eterno. E Lui è buono non come un uomo è buono perché si veste di azioni di bontà e di parole buone. Dio è buono perché è di natura buona, non è vestito, è la sua essenza, è ciò che Lui è. Lui è buono quando parla in quello che dice, e Lui è buono quando è in silenzio e non sai che cosa vuole. Lui è buono quando agisce e opera miracoli e fa cose straordinarie. Lui rimane buono quando non fa nulla. Lui è sempre buono. Non è buono a tratti, non è buono solo quando noi siamo in grado di percepire la sua bontà. No, è la sua caratteristica. Dio è buono. Afferra questa verità. Cambierà la tua vita. Cambierà la tua vita per sempre. Dio è buono. Celebralo ogni mattina, riconosci che Lui è buono in ogni stagione e togliti, sbarazzati di tutto ciò che è dubbio, tutto ciò che è incertezza, tutto ciò che è il filtro che il maligno vuole mettere davanti. Posso darvi un'illustrazione? Sara, se puoi proiettare alle mie spalle lo schermo bianco. Questo è uno schermo bianco e... Antonio, vuoi venire a darmi una mano? Se prendi anche gli occhiali da sole che sono lì. Ho pensato proprio che ti starebbero bene. Sono gli occhiali di mia figlia. Stai bene. Lo sapevo io che saresti stato perfetto con questi occhiali. Perfetto. Come lo vedete voi lo schermo? Che colore è? Bianco. Come lo vedi tu, Antonio? Blu. Blu-violetto? Lo vedi per quello che è il filtro degli occhiali che indossi. Il problema non è che lo schermo non è bianco. Non è un problema di che cosa lo schermo sta mostrando di sé. E il problema non è neanche nella vista di Antonio, perché è perfetta. 10 decimi. Non è neanche daltonico, giusto? Quindi ho scelto proprio il soggetto perfetto. Il problema è nel filtro. Il problema è negli occhiali che indossa. Grazie Antonio. Che filtro hai? Oh, i filtri sono difficili da vedere. Io ricordo ancora un episodio con un mio amico, eravamo in macchina e lui era la guida, e aveva gli occhiali da sole, di quelli scuri che proprio... Non vedi nulla e sono perfetti quando il sole è abbagliante. Eravamo in viaggio, stavamo andando verso il Gargano. Sapete che è una strada libera, soleggiata. Però a un certo punto, per chi lo sa, c'è un tunnel. E in questo tunnel lui è entrato e ha cominciato ad urlare: non vedo più niente, non vedo, moriremo. E un mio amico dietro, non ripeterò le sue parole... Non le ripeto, però vedo che le state immaginando. Gli ha detto, parafrasando, deficiente, togliti gli occhiali. Lui si è tolto gli occhiali e noi siamo scoppiati in una grande risata. Erano gli occhiali, stavamo rischiando la vita, letteralmente. Perché lui aveva degli occhiali e si era dimenticato di averli. Ci sono circostanze e situazioni della nostra vita che ci mettono degli occhiali e noi poi ci dimentichiamo di averli. E siamo convinti che quello che vediamo è perfetto perché noi abbiamo la vista buona. Non possiamo sbagliarci. Però stiamo filtrando il tutto sulla base di esperienze, delusioni, circostanze, parole accumulate, mormorii, critiche e percepiamo una realtà leggermente diversa da quella che è. Però quando cominci a vedere Dio non più bianco nel suo splendore, ma bluastro violaceo o un altro colore, quella piccola percezione diversa di ciò che Lui è ha il potere di privarti della vera vita abbondante che il Signore ha per te. Il Signore vuole farci vivere una vita abbondante. Lui vuole che in noi si sblocchi tutta la sua bontà, perché Lui è generoso. Però vuole che noi la vediamo. E funziona un po' così, come quel verso che citiamo e stracitiamo tante volte, Romani 8, tutto coopera al bene per coloro che amano Dio. Però io tante volte ho sentito questo verso citato anche a persone non credenti, omettendo la parte per coloro che amano Dio. E questo incoraggiamento può essere bellissimo, ma non c'è nulla di più falso di poter dire alle persone: non ti preoccupare, tutto coopererà al bene, perché non è così. Il verso è completo e dice: tutto coopererà al bene per coloro che amano Dio, perché coloro che amano Dio si fidano di Dio, confidano in Dio, fanno scelte con Dio, vivono per Dio, e quindi per questa ragione tutto coopera al bene. Non coopera tutto al bene nel momento in cui tu non ami Dio. Diciamolo chiaramente. Se sei un adultero, una persona che vive nella dissolutezza, che vive nel peccato, che vive nelle scelte autonome, in ribellione a Dio, senza una minima relazione con Dio, per piacere non gli diciamo tutto coopera al bene, perché non è così, è una bugia. Non tutto coopera al bene. Anzi, tutto coopera alla distruzione di coloro che non dipendono da Dio. Per noi invece, che confidiamo in Dio, che amiamo Dio, tutto coopera al bene. Perché in una qualche maniera anche noi diventiamo protagonisti del nostro destino nel momento in cui ci accordiamo nel riconoscere la sovranità di Dio. Se riconosci questa sovranità, anche in momenti più bui, tu puoi dire: ma sai cosa? Io sto con Dio, io amo Dio, io mi confido con Dio, io parlo con Dio, io prego a Dio, io lodo il Signore. Certamente tutto coopererà al bene. Anche se adesso non lo vedo ancora, certamente tutto coopererà al bene. Possiamo meditare a lungo su tanti personaggi biblici che ci offrono questo esempio, ma il più eccellente di tutti è senza ombra di dubbio Giuseppe. Giuseppe viene tradito dai suoi fratelli. Giuseppe viene tradito dai suoi fratelli al punto tale che i suoi fratelli lo vogliono uccidere, ammazzare, non di parole, ammazzare fisicamente. E non credo che tutti noi o la maggior parte di noi abbia mai vissuto una minaccia di morte da parte di qualcuno. Beh, questa è una situazione disperata quella che Giuseppe vive, e viene buttato in una cisterna, e poi dopo essere buttato in una cisterna viene venduto schiavo, e io non so se è meglio morire o vivere da schiavo sotto il dominio degli egizi. Ma andate un po' a studiare come venivano trattati gli schiavi e forse ti renderai conto che è più desiderabile la morte che la vita da schiavo. E per 13 anni Giuseppe vive una vita, tra l'altro in un periodo, in una stagione che dovrebbe essere la stagione più importante per la vita di un uomo, dai 17 ai 30 anni. Dai 17 ai 30 anni, per 13 anni, Giuseppe vive una vita che è il risultato del tradimento, della violenza, dell'ingiustizia. E se ciò non bastasse, Giuseppe continua ad essere fedele a Dio, sottomesso a lui, al punto tale che davanti all'opportunità di cadere in una tentazione, la tentazione di adulterio, perché ama il Signore, perché si fida di Lui, perché sa che Lui è buono, perché conosce i Suoi attributi, lui che fa? Scappa via da quella tentazione, e cosa ne raccoglie? La bontà di Dio, la promozione di Dio. Diventa subito secondo al faraone? No! No! No! Se leggiamo lentamente la parola di Dio e ci immedesimiamo in queste storie, quello che Giuseppe avrebbe potuto vivere in questo momento non è solo il filtro della delusione di fratelli che lo hanno tradito, ma si poteva aggiungere un altro occhiale: il tradimento di Dio. Perché io l'ho seguito, perché io ho ubbidito, perché io sono rimasto integro, perché io e quanti di noi possono aver percepito questa forma di abbandono. Davanti all'imbroglio hai scelto di comportarti bene, davanti all'evadere le tasse hai pagato le tasse, davanti a quella che è una situazione di compromesso hai scelto la via della santità. In ogni cosa ti sei comportato bene, che cosa hai raccolto? Prigionia. E Giuseppe si ritrova sotto un carcere, imprigionato. Ma quello che percepiamo di tutta la storia di Giuseppe è che lui sa togliere i filtri, che vive senza occhiali e perdona e si fida e vede la bontà di Dio e rimane fedele a lui e continua ad essere un uomo di preghiera e si comporta non in base alle persone che lo circondano, alle circostanze, si comporta in base a quello che è il volere di Dio con chiunque. E i fratelli non lo possono comprendere, infatti quando il padre di Giuseppe e dei suoi fratelli muore, pur avendo già avuto il perdono di Giuseppe, palesemente, in maniera manifesta, ora che Giacobbe muore, i fratelli temono di essere ammazzati da Giuseppe e vanno da lui. E voglio leggere con voi quello che avviene in questo episodio. Vanno da lui per dire una bugia, gli dicono una bugia. Gli dicono che Giacobbe, prima di morire, ha espressamente voluto che Giuseppe perdonasse i suoi fratelli. Questa è la bugia. Non l'ha mai detto Giacobbe. Non ha mai espresso questa volontà. Non ha mai comandato a Giuseppe, promettimi che perdonerai i tuoi fratelli. Però i fratelli impauriti si inventano questa paura per non morire. Ma Giuseppe, vedete come risponde, dice, Giuseppe disse loro, non temete, sono io forse al posto di Dio? Vedete la vita arresa, non spetta a me la vendetta, non spetta a me fare giustizia, non sono io che dovete temere. Voi avevate pensato del male contro di me, non lo nega Giuseppe, non nega il fatto, mi avete tradito, voi avete architettato cose terribili, mi hanno devastato per 13 anni. Ma Dio ha pensato di convertirlo in bene. E Dio ha pensato di convertirlo in bene. E io mi chiedo, forse ora sto speculando un po' troppo, però vi lascio anche a voi questo dubbio. Dio avrebbe pensato di convertire in bene se Giuseppe, quale risposta al tradimento dei fratelli, all'atteggiamento dei fratelli, avrebbe maturato amarezza, rancore, odio, voglia di vendetta? Si sarebbe sprigionato l'amore, la bontà di Dio, i piani di Dio per la vita di Giuseppe? Beh, qui esploriamo la sovranità di Dio e vi lascio con questo dubbio. Però una certezza c'è. E che Giuseppe ha da offrirci un modello e un esempio, a tal punto che i teologi dicono che Giuseppe è il tipo di Cristo. Tipo viene utilizzato come termine per dire personaggi biblici che manifestano i caratteri di Cristo, soprattutto prima della sua venuta. Mosè è un tipo di Cristo, Davide è un tipo di Cristo, Giuseppe è un tipo di Cristo. Perché? Perché non vive secondo i suoi principi, secondo i suoi sentimenti e secondo le sue emozioni. Toglie il filtro, guarda Dio per quello che è e vive secondo quella che è la volontà di Dio. Voi avevate pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene per compiere quello che oggi avviene, per conservare in vita un popolo numeroso. Ora dunque non temete, di nuovo, io provvederò al sostentamento per voi e i vostri figli. Così li confortò e parlò al loro cuore. Sapete, si può parlare al cuore di un altro solo se hai un cuore guarito. Giuseppe ha un cuore guarito e dal cuore guarito che ha, parla al cuore dei suoi fratelli. E dal cuore guarito e sano, sanato, privo di filtri che ha, non solo li ha perdonati, ma ora fa del bene ai suoi nemici, provvede a loro e ai loro figli. Almeno si sarebbe potuto trattenere di questa generosità. Uno sfizio se lo poteva togliere, dico io, no? A dire non vi ammazzo, non vi ammazzo, però un po' di dolore. Cioè, mo devo stare pure io a darvi il sostentamento. mi devo privare io di alcuni dei miei beni affinché voi possiate stare bene e vivere una vita felice, più felice di quella che vivreste senza di me, pur avendo fatto tanto male a me? No, almeno per 13 anni, facciamo così. Il mio contributo per la vostra vita sarà quello di farvi riflettere sul male che mi avete arrecato. E per ben 13 anni io non vi ammazzo, vi sopporto, ma non provvederò a voi. L'eredità ai vostri nipoti, ma a voi no. Invece Giuseppe è un tipo di Cristo, è un tipo di Cristo sulla croce. Signore, perdonali. E solo un cuore guarito può chiedere e fare questa richiesta al Padre. Dio è buono e vuole che tu sperimenti la piena bontà sua e vuole convertire il male che ti viene buttato addosso in bene. Ma non aspettarti il bene quale riscatto dalle persone che ti hanno voluto del male. No, non farlo. Fai a loro del bene, lasciali andare. Tu sei sotto il controllo, la sovranità di Dio. Che nome hanno quegli occhiali per te? Che nome hanno quegli occhiali? Per Giuseppe avevano il nome dei suoi fratelli. Per te che nome hanno quegli occhiali? Una persona che ti ha tradito, una persona che ti ha ferito, una persona che ti ha deluso, una persona che sentimentalmente ti ha devastato, è questo il nome degli occhiali che indossi? Che non ti permette di vedere limpidamente chi è Dio e di percepire la sua bontà e vivere nella sua bontà? Oppure quegli occhiali hanno il nome di una malattia? O quegli occhiali hanno il nome di un datore di lavoro, di una circostanza lavorativa e di un contesto difficile nel quale ti ritrovi a vivere? Che nome hanno quegli occhiali? Questa mattina il Signore mi ha incaricato a dirti: lascia quegli occhiali, abbandona il filtro, vedimi per quello che sono. Io sono buono, sempre buono, eternamente buono, e tutto coopera al bene per coloro che mi amano, per coloro che si fidano di me. Lascia andare la vendetta, lascia andare la prigionia nella quale altri ti hanno messo. Non vivere, non scegliere il bivio dell'amarezza, del rancore, del risentimento. Scegli il bivio della libertà. Lascia andare gli occhiali. Dio è buono e ti chiama a una vita buona. Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, mansuetudine, bontà, autocontrollo. Bontà, bontà è nel frutto che Dio vuole darti. Come Lui è buono, Lui vuole rendere te buono, libero, pieno di vita, con una fede stabile, una prospettiva chiara, nel vivere nella verità e non nelle bugie del diavolo, nella possibilità piena di afferrare il cambiamento e la trasformazione che Lui ha in mente per te, per darti una vita gloriosa. Allora alziamoci in piedi. E mentre chiudiamo i nostri occhi e ci accingiamo a pregare, io voglio chiederti questa mattina: sei tu disposto a lasciare quegli occhiali? Sei disposto in primis a riconoscere che ci possono essere dei filtri nella tua vita, che non vedi più, che sono così impiantati davanti ai tuoi occhi da tanto tempo, da cambiare, anche se di poco, la percezione che hai di Dio? Vuoi chiedere perdono a Dio? Perché non è giusto che tu percepisca Dio diversamente da quello che Lui è, da quello che Lui rivela di se stesso. È un peccato. E allora ti chiedo questa mattina: sei disposto a dire a Dio: perdonami se ho mai pensato e ho mai messo in dubbio la tua bontà? La tua bontà per la Chiesa, la tua bontà per la mia vita, la tua bontà, quale attributo che ti caratterizza. È importante sempre partire dalla confessione e dal perdono. Questo rimuoverà quel filtro. E poi questa mattina devi scegliere, forse di perdonare qualcuno, forse di lasciare un'amarezza, forse di abbracciare ancora una volta quella caratteristica alla quale Dio già ti ha invitato, di essere inoffensibile. Togli gli occhiali, ti dice il Signore, mentre abbiamo i nostri occhi chiusi. E so che molti cuori sono arresi. Se il tuo cuore si sta abbassando, si sta umiliando, allora ti chiedo di alzare le tue mani al cielo e di arrenderti alla presenza di Dio e di celebrarlo perché Lui è buono e la sua bontà dura in eterno. Alleluia. Sei buono, Padre. Sei eternamente buono. Tu sei il solo che è veramente buono. Tu sei perfettamente buono. E noi ti chiediamo perdono perché viviamo in una generazione, in una società che con molta facilità attribuisce a te il male. Attribuisce a te le ingiustizie, attribuisce a te le guerre, a te la fame, a te la malattia, attribuisce a te. Quando tu sei invece andato su quella croce per pagare le nostre colpe che causano tutto questo nel mondo in cui viviamo. Stamattina ti diciamo perdonaci, perdonaci. Perdonaci per l'idea sbagliata che accettiamo da parte del nemico e del mondo che ci circonda. Perdonaci, perdonaci perché non è questo quello che vogliamo vivere. E ci spogliamo ora di ogni bugia e di ogni dubbio per afferrare con i denti e con le mani la verità. La verità che tu sei sempre buono ed è questo ciò che ti contraddistingue, quale Dio meraviglioso. Lo sei stato dalla Genesi e lo sei fino all'Apocalisse, fino alla fine dell'età presente per tutta l'eternità. Tu sei buono. Perdonaci. E io prego che tu possa ora dare libertà a ciascuno di noi. Libertà da quei filtri, da quelle delusioni, da quell'amarezza, da quelle ingiustizie subite. Liberaci, Padre, liberaci dal male, liberaci dal male, liberaci dal male degli altri, liberaci dall'amarezza, liberaci dal rancore, liberaci dai bagagli, liberaci dalle cose che non lasciamo andare, liberaci. E facci affrontare tutto quello che affrontiamo con la convinzione che tu tramiti il male degli altri in un bene, perché tu sei il sovrano e sei tu ad avere l'ultima voce sulle nostre vite. Non gli altri, non le circostanze, non la malattia, non la debolezza, non le difficoltà, non i problemi, non sono loro il nostro Dio. Sei tu il nostro Dio e noi siamo ben sicuri rifugiandoci nella tua bontà. Alleluia. Amen. Continuiamo a pregare, stiamo alla sua presenza.